Europa 24. Ancora buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, visto che Simone Spezia vi parlava giustamente del presidente del capo dello Stato, ora ufficialmente in carica, vi cito, come dire, per completare il quadro, quello che lui ha detto sull'Europa. L'Europa, ha detto appunto Sergio Mattarella, rappresenta oggi ancora una volta una frontiera di speranza e la prospettiva di una vera unione politica va rilanciata senza indugio. Così dunque direi nel solco del suo predecessore. Il tema della missione europea del nuovo governo di Atene, dunque l'incontro del pomeriggio, Tsipras, Renzi e naturalmente Varoufakis con il suo omologo italiano Padoan. Intanto emerge un po' questa Tsipras mania che si diffonde, l'avete sentito nei giorni scorsi, Obama che ha detto sono d'accordo nella sostanza con Tsipras, e adesso anche Silvio Berlusconi che dice sul fatto che questa politica europea non funziona sono d'accordo, così il suo commento. Lo ricordiamo, Silvio Berlusconi oggi di fatto è rientrato nella vita pubblica nazionale. Insomma, Atene non vuole più la troica e pare che la BCE starebbe pensando proprio ad un ritiro di questa squadra, per alcuni un po' troppo armata, il trio formato dall'Unione Europea, dall'Eurotower, quindi dalla Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario. Lo scrive oggi in Bella Vista il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, di solito ben informato, che cita fonti, dice il dibattito interno è in corso. Insomma, potrebbe anche profilarsi di fatto lo smantellamento di questa squadra che negli anni della crisi ha tenuto d'occhio i conti pubblici, per molti male, per alcuni troppo. Ma sentiamo adesso il punto invece che ci fa Andrea Viali sulla visita appunto romana del presidente del Consiglio greco. Nella seconda tappa del suo tour in Europa, Alexis Tsipras sbarca oggi a Roma per cercare una sponda in Matteo Renzi e allargare il fronte dei paesi europei contrari alle politiche di austerity. Il premier greco arriva in Italia forte di un sostegno pesante, quello incassato da Barack Obama. Non si può continuare a spremere paesi che sono in profonda depressione, deve esserci una strategia di crescita per permettere loro di rimborsare i debiti ed eliminare parte dei loro deficit, ha detto ieri il presidente americano, parlando della situazione greca in un'intervista alla CNN. A molti in Europa non sono piaciute però le parole di Tsipras, che sempre ieri da Cipro ha chiesto di sostituire la troica. La troica non si tocca, e l'alto là subito arrivato dalla Germania e dalla BCE. A rispondergli stamattina è anche Jean-Claude Juncker, al leader di Syriza in vista del loro incontro in programma domani. Il presidente della Commissione europea ricorda che l'Unione non può cambiare tutto soltanto perché un paese lo vuole, ma bisogna tenere conto anche delle convinzioni degli altri. A Renzi Tsipras oggi presenterà il suo piano per la ristrutturazione del debito greco, ma l'obiettivo della sua visita è soprattutto quello di costruire un asse contro l'austerity e a favore della crescita, cosa più volte sollecitata da Renzi durante il semestre italiano di presidenza europea. I due si vedranno nel pomeriggio, il loro incontro sarà preceduto di qualche ora da quello fra il ministro delle finanze greco Varoufakis e il ministro dell'economia Padoan. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, come avete sentito, sul ruolo che ha avuto, che dovrà avere la troica, c'è dibattito, naturalmente destinato a continuare a partire da domani, che sarà la giornata appunto dell'arrivo dei vertici greci a Bruxelles. E da Bruxelles invece la Commissione europea, agendo come autorità antitrust UE, ha aperto un'indagine approfondita sugli accordi fiscali anticipati con i quali il Belgio permette ad alcune multinazionali insediate nel paese di beneficiare di un regime di imposizione societaria estremamente favorevole a cui non hanno accesso altre imprese nazionali. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa a Bruxelles la commissaria UE alla concorrenza Margrethe Vestager, e direi che questo è un altro filone che, come dire, segue anche gli eventi che hanno toccato direttamente il Lussemburgo e l'attuale presidente della Commissione europea. Bene, quando sono le 14:06, tutto per Europa 24, ora l'appuntamento con lo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.